Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Nico Menchini dal titolo Antico Castello. Del sangue ho scorto sulle tue pietre, solitario e antico castello, ma non era del tuo padrone, era di mani piegate dalla fame e porta della miseria e l'odore, moneta in cambio di ricchezza. Alla voce di ninananne spezzate, di vagiti nelle gole soffocati, offerte a miraggi d'alta ambizione, del sangue scorto sulle tue pietre, solitario antico castello, ma non era il tuo padrone. Vi rivedo il triste riflesso di visi stupiti, di amanti traditi, capriccio di signore schiave della stirpe, era di giovani speranze vestite da guerrieri, morte da agnelli, nate dalla parte sbagliata. Del sangue ho scorto sulle tue pietre, solitario antico castello, ma non era il tuo padrone. È il sigillo rosso dell'oppressione, è l'orma del piede che schiaccia chi già è nato nel fango.